Buongiorno carissimi amici di Mi Mancano i Fondamentali, sono Enrica Merlo e oggi il podcast sarà estremamente breve perché vi spiego immediatamente. Il titolo di questo articolo è La voce invisibile del vento di Clara Sanchez e praticamente è la recensione che io ho fatto su questo libro, molto bello, ve lo dico già, mi è piaciuto molto. Potete comunque sentire la mia recensione vedendo cliccando sul video che c'è proprio alla fine dell'articolo. Lì c'è questo video dove io spiego quello che penso riguardo a questo libro e quindi è come se fosse già un podcast all'interno dell'articolo, ecco. La vostra libreria mancata, perché sapete che io in quanto presentatrice di libri, mi chiamo quella donna una libreria mancata, vi propone oggi La voce invisibile del vento di Clara Sanchez, edizione Mondo Libri. Potete trovare questo libro su Amazon e metto anche il link qui, sia in versione Kindle che copertina rigida, oppure sul libraccio. Pure se, come dico sempre, se lo trovate a meno usato, buon per voi. Io non sono contraria a questo tipo di acquisto. Ecco. Questo video si trova anche in diretta sul mio profilo Facebook e poi appunto alla fine del piccolo articolo c'è il video dove io vi vado spiegando, un bel video bello corposo perché io solitamente sono molto, come si dice, prolissa, no? Quando parlo dei libri, in genere quando faccio i video sono prolissa. E basta, finito qui, tutto qui. E poi alla fine di questo articolo c'è il vuoi sostenere con una piccola donazione il mio blog? È possibile tramite PayPal scansionando il codice QR e c'è la freccolina e il codice QR sotto, semplicemente. Potete darmi nulla, potete darmi quello che volete, pochissimo, poco, tantissimo, quello che vi pare, per sostenere questo mio blog che ormai vive dal 2016 e che magari se avesse qualche, come si dice, fondo in più si riuscirebbero a fare anche cose un po' più corpose. Ecco qua, tutto lì, semplicemente questo. Poi è un lavoro per me anche questo, quindi un minimo di remunerazione, anche se so che non ci sarà questa remunerazione, ma fa lo stesso. Benissimo. Allora, la vostra libreria mancata in questo caso, su Mi Mancano i Fondamentali blog, vi saluta e vi ricorda che questo è il podcast della Voce Invisibile del Vento di Clara Sanchez, ma potete trovare tutto anche sul video che si trova verso la fine dell'articolo. Grazie mille di avermi ascoltata come sempre. Vi saluto e alla prossima allora.